Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Ciao a tutte e a tutti e bentornati a Fermata Provvisoria. Io sono Veronica e oggi vi terrò compagnia fino alle 17 circa con una bella intervista. Infatti l'artista che andrò ad intervistare oggi è Lorenzo Sbarbati, un cantautore marchigiano nato a Macerata nel 1991. Dopo un passato da frontman e autore nei Senza Senso, band con cui realizza un album e numerose aperture tra cui ricordiamo Bruno Risas, Il Teatro degli Orrori, Rachele Bastreghi e Bobo Rondelli, nel 2018 inizia il suo percorso solista e si trasferisce a Bologna. Viene notato da Andy Pomato, cantautore argentino, e registra il brano Paris Marseille Anvers in Piazza Maggiore per il famoso brand tedesco. Nello stesso anno, Bologna Città della Musica UNESCO sponsorizza altri due suoi brani dal nome L'Era dei Convinti e Per Amare Me. Quest'anno, nel 2020, viene affiancato nella produzione dal giovane autore e produttore Ivan Amatucci, che vanta collaborazioni con Dario Faini e Roberto Casalino, ed esce il suo ultimo singolo, Cose che non so, brano che anticipa il primo album di Lorenzo Sbarbati, che è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 4 dicembre, quindi è assolutamente recentissimo, e tra poco lo trasmetteremo sulle nostre frequenze. Prima di collegarci con lui vorrei trasmettere un altro suo pezzo, uno di quelli che ho citato prima, dal nome L'Era dei Convinti, perché credo che abbia proprio un bel significato, un testo tanto diretto quanto profondo. In esso Lorenzo descrive la situazione sociale odierna con un approccio a metà strada tra ironia e sarcasmo, supportando le sue parole con delle sonorità tipicamente cantautorali e folk. Tra l'altro il videoclip sottolinea in modo veramente preciso e consistente lo scarto che esiste tra un seguito sentito, reale, quindi, e un seguito che aderisce solo formalmente a ciò che l'artista dice e si impegna a sostenere. Quindi presenta scene che dovrebbero accendere il senso critico o semplicemente il senso estetico di una vita umana, che invece non sortiscono con alcun interesse sugli stessi follower dell'artista, che solo sul finale del videoclip si accorge della distrazione generale delle persone che lo stanno seguendo e di aver perso molti follower lungo il tragitto, tanto che un manichino, un signor chiunque ben pubblicizzato, prende il suo posto. Quindi in questa canzone, ricordiamo intitolata L'Era dei Convinti, il tema è quello della rivalutazione del dubbio e dell'incertezza in un mondo ormai preda delle convinzioni facili, dove vige l'accettazione acritica di notizie, di modelli di vita e di società predeterminati, perché l'uomo contemporaneo non solo non sa creare alternative a questo modo inautentico di vivere, ma non è neppure più in grado di immaginarle, proprio perché il seme del dubbio non trova più un terreno fertile dove germogliare, dice proprio Lorenzo. Queste sono le sue parole. Quindi adesso, prima di collegarci direttamente con lui, ci ascoltiamo questo suo brano. Questa è L'Era dei Convinti. Siamo nell'era di quelli convinti che per parlare non serve sapere, basta soltanto avere un'idea che superi la notte, non sia di cartapesta, basta che resta fissa in testa, che non si muova dalla tua bacheca digitale, che prenda il mi piace, che non ci fermiamo a parlare. Virtuale della finzione, meglio del reale, basta non pensare a cosa ci aspetta o ci spetta, fumo fuori dalla finestra, l'ara ci aspetta, bisogna andare. Ma dove? L'incertezza non ci tocca più, ci vuole esercizio per avere giudizio, saper dubitare e farne virtù. Se tu ci sfiora più, ci vuole esercizio, non prenderci il vizio, pensare al domani, oggi o mai più. pubblicità. Sembra una ricetta confezionata e prescritta dal medico di base o dall'oculista, che ti dice per vedere meglio basterebbe un occhiale nuovo, due lenti di ingrandimento, guardarsi un po' più dentro. Ma come? L'incertezza non ci tocca più, ci vuole esercizio per avere giudizio, saper dubitare e farne virtù. Se il dubbio non ci sfiora più, ci vuole esercizio, non prenderci il vizio, pensare al domani, oggi o mai più. L'uomo che conta, che pesa, che vale come una moneta, che si dice sia nata come mezzo. Oggi vedo solo un film immenso, così denso, mondo spento, ingranaggi, cemento, pieno, pieno tempo perso, ricorrere il momento del divertimento. Oh, il successo, i miti del progresso, a dormire sulle illusioni, a dare calci ai fiori. Ci tocca più, ci vuole esercizio per avere giudizio, saper dubitare e farne virtù. Se il dubbio non ci sfiora più, ci vuole esercizio, non prenderci il vizio, pensare al domani, oggi o mai più. L'incertezza non ci tocca più, se il dubbio non ci sfiora più, ci vuole esercizio, non prenderci il vizio, pensare al domani, oggi mai più. Oh, oggi mai più. Oggi mai più. Oggi mai più. Questa era L'era dei convinti di Lorenzo Sbarbati, l'artista che tra pochissimo intervisterò qui ai nostri microfoni e di cui trasmetteremo l'ultimissimo singolo intitolato Cose che non so, uscito lo scorso 4 dicembre. La produzione artistica di questo nuovo brano è curata da Ivan Amatucci, mentre del videoclip se ne è occupato Fabrizio Guerra. Allora direi di non indugiare oltre, di non perdere ulteriore tempo, ma di collegarci direttamente al telefono con Lorenzo, che è già qui in collegamento con noi. Ciao Lorenzo. Ciao Veronica. Come stai? Non troppo bene. Questo credo che sia una cosa un po' di tutti però nell'ultimo periodo, quindi... Sì, a causa di questa situazione gravata dalla pandemia, diciamo. Infatti a tal proposito volevo chiederti cosa ne pensi innanzitutto di come lo Stato abbia trattato e sta trattando tuttora il settore musicale e tu da artista che sta per far uscire il suo primo album, come vivi questo periodo? Sicuramente noi siamo stati sempre la categoria meno considerata da prima del Covid, figuriamoci con il Covid, cioè esatto. È una categoria che non è mai esistita, quindi cioè, tuttora con la situazione del Covid... poteva solo che peggiorare e così è stato. Infatti personalmente, a parte quest'estate che sono riuscito a fare qualcosa, insomma qualcosina, qualche live e a portare avanti la mia attività d'artista in strada, da settembre, ottobre sono di nuovo fermo, quindi non ho potuto nemmeno più suonare in strada. In maniera inspiegabile questa cosa, visto che centri commerciali sono aperti, ci sono sì, esatto. Tutte le attività sono aperte, noi non possiamo nemmeno suonare in strada all'aperto perché non si sa per quale motivo, cioè nel senso, quindi questa è una cosa abbastanza, senza considerare il discorso dei teatri che lì stendiamo un velo pietoso, insomma, per il fatto che i centri commerciali sono aperti e i teatri che sono chiusi, cioè una cosa che è davvero... Sì. Sì, diciamo che il settore musicale è stato considerato come quello più sacrificabile, quando in realtà non è così. Sì, sì, ma in generale tutto ciò che non crea ricchezza in questa società è sacrificabile, cioè dove non c'è passaggio di denaro, la società di mercato lo vuole far fuori, ecco, questo è un po' il discorso. Purtroppo è vero. Le attività che arricchiscono l'essere umano in quanto tale e basta, e che non fanno perno sul settore economico, sono attività che non vanno considerate. Purtroppo è così. E questa pandemia l'ha semplicemente messo in luce ancora meglio, non è che non ci si stupisce di nulla, purtroppo. Sì. Speriamo che andando avanti, insomma, la situazione migliori, ecco. Sì, speriamo di sì, c'è una speranza per la primavera, che in teoria che dovrebbe essere il periodo di ripartenza dei live. Vediamo, insomma. Vedremo. Comunque, facendo un salto indietro, prima di parlare del tuo ultimo singolo uscito il 4 dicembre, volevo chiederti quando è che ti sei accorto che la musica per te era molto più di una passione e che volevi farla diventare un vero e proprio lavoro? Allora, diciamo che ho sempre suonato, perché comunque più o meno dall'età di 16 anni, 17 anni ho iniziato a suonare anche dal vivo, insomma, i primi concertini, e fino a, diciamo, l'età più o meno di 25-26 anni, ora ne ho 29, l'ho fatto in maniera più amatoriale, diciamo. Poi ho iniziato a sviluppare l'idea sempre di più di fare questa cosa nella vita. Semplicemente è stata maturata come esigenza che veniva da dentro, e semplicemente accorgendomi che mentre scrivevo le mie cose, tutto questo non era altro che la cosa che volevo fare di più nella vita, mi accorgio proprio la soddisfazione per la gioia, insomma, che mi dava fare questo tipo di lavoro, oltre a lavorare insieme ad altre persone come musicisti, produzioni, quindi con lavorare proprio ai miei pezzi era qualcosa che mi dava tantissimo. Diciamo che il cambio decisivo c'è stato quando mi sono trasferito a Bologna 3 anni fa, e lì ho iniziato 2 anni e mezzo fa. Ho iniziato a suonare in strada, e io venivo, insomma, dalla provincia, dalle Marche, e non c'è molta attenzione per la musica, soprattutto per la musica inedita, quindi fino a quel momento, diciamo, c'era una grande voglia di farlo, ma forse sembrava che non ci fossero le possibilità. Da quando mi sono trasferito a Bologna ho iniziato a vedere in strada una reazione molto forte di tutte le persone, insomma, che si fermavano e apprezzavano i miei brani. Allora ho detto, forse lo posso fare davvero nella vita, e ho iniziato a crederci sempre di più. Ho iniziato a scrivere diversi singoli, tirare fuori diversi singoli, e fino adesso che sono pronto per uscire con il mio primo album da solista, insomma. Bello. Tra l'altro, appunto, parlando dei tuoi singoli, vorrei chiederti se sia a livello di testi che a livello di sonorità ci sono artisti a cui ti ispiri e con i quali magari un giorno ti piacerebbe collaborare. Io sono cresciuto con il canto operato, quindi anche se ho ascoltato sempre molta musica, quindi italiano e straniero, ho sentito sempre molta musica, però diciamo sono cresciuto con il cantautorato, da Dalla, di André, Fabi, Bersani, Gazzè, ma anche più, insomma, anche sono un stimatore adesso di molti cantautori anche contemporanei che sono bravissimi, cioè tipo l'ultimo cantautore che prendo sempre un modello è Giovanni Truppi, che è uno dei miei preferiti attualmente, ma anche Emanuele Colandrea, insomma ci sono tante belle cose anche oggi, ma magari è più difficile trovarle, però ecco, ci sono e come. È più difficile trovarle perché ci sono tante proposte ed è difficile, insomma, trovare quelle che spiccano per qualità e per autenticità. Sì, beh, al giorno d'oggi c'è tanta gente che vuole farsi strada nel settore musicale. E senti, invece adesso arriverei appunto al tuo ultimo singolo uscito il 4 dicembre dal nome Cose che non so. Puoi spiegarci un po' come è nato questo pezzo, darci qualche info in generale sul pezzo? E Cose che non so è nata da un momento, diciamo, di profonda incertezza che ho vissuto qualche tempo fa, e ho pensato di racchiudere quella sensazione di incertezza e tutte le cose che non sapevo fino a quel momento in quel brano, come se fosse trasformando appunto queste mie insicurezze e incertezze in qualcosa che potessero raccontare anche le incertezze di un momento storico particolare che è quello che stiamo vivendo, anche da prima della pandemia, dove le persone si sentono sempre molto più sole, isolate spesso, e anche incapaci soprattutto di entrare in relazione con gli altri, di capire gli altri, di capirsi, e quindi ho deciso di farla uscire proprio in questo periodo, perché secondo me era ancora più forte questa sensazione, no? Che viviamo un po' tutti. Sì, tra l'altro è uscito anche il videoclip di questo pezzo. E ci spieghi un po' anche come il videoclip riesce ad enfatizzare il senso della canzone, ad amplificarlo e quindi farlo arrivare in maniera ancora più chiara e diretta alle persone? Allora, innanzitutto vorrei dire che il videoclip è stato girato da Fabrizio Guerra, che è mio carissimo amico e bravissimo regista, e diciamo ha dato lui carta bianca per scrivere la sceneggiatura di questo videoclip, che procede soprattutto per immagini, cioè questa corsa in bici, dove ci sono io che sto correndo per raggiungere questo traguardo, e queste scene sono alternate a scene in cui io sono alla guida di una vettura, la stessa vettura che di notte cerca di uccidermi, di inseguirmi per uccidermi, per venirmi addosso. Quindi c'è questo rimando metaforico a una situazione in cui si ha la sensazione di essere diciamo alla guida della propria vita, quindi con il volante in mano, e altre volte in cui invece veniamo travolti dalle nostre stesse scelte, spesso, oppure da scelte che si sono rivelate essere poi sbagliate, situazioni che non ci aspettavamo di vivere e che quindi ci troviamo a dover scappare via. Siamo fortunati, come dice Fabrizio, il regista, se abbiamo una bici sotto il sedere per correre via più veloce delle conseguenze delle nostre scelte. Beh, molto bello il senso sia del video che della canzone, spero che piaccia anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché tra pochissimo lo trasmetteremo. Però prima di questo vorrei farti un'ultima domanda. Questo singolo anticipa appunto il tuo primo album, quindi cosa puoi dirci? Cioè, quando uscirà questo album? Puoi farci già qualche spoiler? Non lo so. Ma sicuramente l'album uscirà ad aprile, maggio, sempre se, insomma, pandemia permettendo, nel senso che abbiamo, parlando anche con la produzione, abbiamo deciso di aspettare il momento in cui si potrà suonare dal vivo, perché è inutile, insomma, far uscire un album, soprattutto per come è il nostro modo di concepire la musica, mio e della mia squadra, insomma, che è molto anche importante la componente della musica dal vivo. Se non abbiamo quella sicurezza lì non ci muoviamo, questo è sicuro. Per il resto stiamo lavorando ai pezzi e finiremo a breve di registrarlo e aspetteremo il momento opportuno per il lancio, che speriamo possa essere appunto aprile-maggio. Beh, allora, nella speranza che questa situazione di disagio finisca presto, io ti faccio un enorme in bocca al lupo per quello che verrà. Speriamo che vada tutto bene. E ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, grazie a voi. E adesso ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Cose che non so. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ci sono cose che non so di me. Perché non mi prendo tempo? Perché non mi sento dentro quella voce che fa così? Ah, ah, aspetta a dire sì. Non ti sposo, non ti imploro. Io sono quello che ero e sono fatto nuovo di luce mia. Madonna mia, che aporia fra realtà e fantasia. Non ne esco mai e così sia. Ma perché vedo gli altri vestiti da re che dettano condizioni e che non si cullano soli allori? Io non ci riesco, io non lo capisco, io non posso credere di fare lo stesso. Continuo a dirmi, io non ci riesco, io non lo capisco, io non posso credere di fare lo stesso. Sono cose cose che non so di me, perché non afferro il senso della fine di un sentimento, quella voce che fa così, no no no, io mi fermo qui, ma com'è? Non dovevamo essere noi l'eccezione alla regola della solitudine. Presi dal culto di sé e della propria libertà, senza avvertire mai il peso che ha. Io non ci riesco, io non lo capisco, io non posso credere di fare lo stesso. Continuo a dirmi, io non ci riesco, io non lo capisco, io non posso credere di fare lo stesso. Ci sono cose che non so di me, per questo mi prendo tempo, 10 anni di trattamento per amare me.